Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Le batterie litio-silicio con il loro 30% in più di capacità di carica diventano una realtà. Questo grazie all'aggiunta di un pizzico di grafene. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Le batterie litio-silicio sono un'evoluzione delle attuali batterie agli ioni di litio, il cui potenziale era noto da anni, ma che avevano grossi problemi di durata, diventando inservibili dopo pochi cicli di carica e scarica. Ne parlammo per la prima volta a novembre 2016 con Vittorio Pellegrini, direttore del Grafene Lab dell'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia. Ebbene, il problema oggi appare finalmente superato proprio grazie al lavoro fatto ai Grafene Lab, lavoro poi confluito in uno spin-off chiamato B-Dimensional. Ora la startup, insieme all'IIT e a Varta, sta lavorando all'industrializzazione, quindi alla commercializzazione della nuova tecnologia. E allora noi diamo il bentornato a Vittorio Pellegrini. Buonasera Vittorio. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, intanto che bella notizia, è anche bello vedere e poter raccontare agli ascoltatori come vanno a finire alcune delle ricerche di cui parliamo. Allora, ci ricordi per cominciare dove sta il problema e come lo avete risolto? Ma il problema è molto semplice. Da un lato abbiamo un materiale che è il silicio, che tutti sanno da vari anni che ha delle performance incredibili se inserito come anodo, come uno degli elettrodi nelle batterie ioni litio, quelle che usiamo in tutti i dispositivi, anche nelle automobili. Dall'altro il problema è che ogni volta che la batteria viene ciclata, cioè si carica e si scarica, questo materiale si espande e si contrae un po' come una spugna, e quello che succede è che nel fare questo ciclo di espansione e contrazione si rompe, per cui tantissimo beneficio, ma dopo due o tre cariche e scariche la batteria è da buttare. Questo è il problema di questo materiale, su cui hanno lavorato e stanno lavorando gruppi e industrie in tutto il mondo, e lo si risolve introducendo qualche altro attore, ormai si sa che a base di carbonio, che deve mitigare o eliminare il problema, e noi lo abbiamo trovato nel grafene. Che utilizzate come una specie di ammortizzatore all'interno della batteria, che fa anche però da conduttore elettrico. Esatto, il grafene sono fogli di atomi di carbonio, spessi quanto un atomo, che sono meccanicamente molto robusti, flessibili e conducono elettricità. Quindi noi abbiamo praticamente disegnato in laboratorio una struttura, lasciami passare l'immagine, a lasagna. Sì. Le particelle di silicio sono intrappolate tra questi fogli di grafene, e durante questo processo di espansione e contrazione, in realtà il grafene, come una specie di autostrada, mantiene l'uniformità dell'elettrodo, della capacità degli elettroni e degli ioni di muoversi liberamente. E quello che abbiamo scoperto prima in laboratorio e poi anche nelle successive fasi industriali con Varta è che in realtà la quantità di grafene che viene messa all'interno di questo elettrodo per ottenere questo risultato è veramente molto piccola, il che è un bene, perché in realtà il vero materiale performante è il silicio. A che punto siete dello sviluppo industriale e commerciale di questa nuova tecnologia, che quindi ci aspettiamo finirà sul mercato e consentirà una capacità di carica del 30% superiore alle attuali batterie al litio? Allora, questa è un'idea nata diversi anni fa all'Istituto Italiano di Tecnologia, e poi confluita in un progetto molto ampio con Varta, che è una dei leader mondiali, forse l'azienda principale nella produzione di microbatterie, quindi sono batterie che servono a far funzionare tutta una serie di dispositivi elettronici di uso comune, dalle cuffiette wireless alle chiavi smart delle automobili o anche dispositivi biometrici. Negli ultimi due anni Varta ha validato progressivamente il materiale e ha iniziato una produzione industriale, quindi ok, l'idea funziona in laboratorio, ma funzionerà quando la portiamo all'interno di un'industria, all'interno di un processo produttivo. Abbiamo scoperto che in realtà funziona, misura di un 30% queste microbatterie, il che è un dato molto significativo, e adesso siamo alla fase successiva in cui Varta inizierà a certificare e a validare attraverso il feedback da parte di alcuni clienti selezionati il prodotto. Passata questa fase, la batteria sarà pronta per la commercializzazione. Tempistiche quali potrebbero essere per arrivare sul mercato? Non sono certe, ma direi da qualche mese a un anno e mezzo da ora. Parliamo di microbatterie in questo caso, ma parliamo di una tecnologia scalabile in termini di dimensioni. Pensiamo tutti naturalmente ai problemi di autonomia delle auto elettriche. Ed è possibile in futuro andare anche oltre questo 30%? Di carica extra che già riuscite a garantire? La tecnologia è assolutamente scalabile, chiaramente nel portarla e nell'introdurre questo materiale all'interno di moduli di batterie per l'automobile, per esempio, dovremo affrontare tutta una serie di questioni che andranno appunto risolte nel prossimo futuro. E devo anche dirti che da questo punto di vista, grazie al progetto della Graphene Flagship, che è un progetto europeo da 1 miliardo di euro, che ormai da diversi anni diciamo monopolizza la ricerca e l'industrializzazione di prodotti a base di grafene a livello europeo, inizieremo il 1 aprile con un'azienda leader nel settore automobilistico, non posso dire il nome, proprio questa validazione della tecnologia a livello di applicazione nel mondo automotive. Ah, caspita, questa 30, è una notizia. Il 30% è ovviamente un inizio, sicuramente si può ottimizzare ulteriormente, quindi no, pensare a un 40%, un 50%, però si può andare molto al di là di questo valore, perché in realtà fino ad ora ci siamo focalizzati su uno dei due elettrodi della batteria, che è appunto l'anodo. C'è anche l'altro elettrodo, che è il catodo. Invece lavorando sul catodo, e ovviamente su questo ambito c'è una ricerca che è molto significativa ovviamente, si può addirittura arrivare a creare batterie ioni litio che sono il doppio, il triplo più performanti di quelle attuali. Va bene, allora grazie Vittorio Pellegrini e avanti così. Grazie, grazie tantissimo e buona serata a tutti. E allora cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata a tutti voi.